378 zucchini ripieni di magro. Preparateli come i precedenti e riempiteli con un composto fatto con tonno sott'olio tritato fine con la lunetta ed intriso con uova, un pizzico di parmigiano e un poco di quel midollo levato dagli zucchini, l'odore delle spezie, una presa di pepe e punto sale. Metteteli a cuocere nel burro, quando questo avrà preso il color nocciola, e aggraziateli con la salsa di pomodoro numero 125. Se li farete con attenzione, vi riusciranno tanto buoni da non credersi.